Capitolo primo. Quello che è avvenuto a voi, ateniesi, in udire i miei accusatori, non so. Ma io, per cagion loro, poco meno mi dimenticai di me stesso, così parlarono persuasivamente. Benché, se ho a dire, essi non han detto nulla di vero. Ma delle molte loro menzogne, ne ammirai massimamente una, questa. Dissero che a voi bene conveniva guardarvi non foste tratti da me in inganno, perciò che sono terribile dicitore. Imperocché a non vergognarsi che tosto li avrei smentiti, mostrando in fatto non essere niente terribile dicitore, questa mi parve la loro maggiore impudenza. Salvo che non chiamino terribile dicitore uno che dice il vero, che, se intendono così, ben consentirei che sono oratore io. Ma non a lor modo. Essi dunque han detto poco o nulla di vero, come io dico, ma da me voi udirete tutta la verità, non per Giove orazioni ornate come le loro di frasi e parole belle, ma sì udirete cose dette senza niuno studio con quelle parole che vengono, ma giuste, io credo. E niun di voi si aspetti altro da me, perché non istarebbe bene che io, o cittadini, venissi innanzi a voi come un giovinetto che modelli sue orazioni, io, a questa età. Anzi, o ateniesi, di questo prego voi e voi supplico, che se udite me, con quelle parole difender me stesso con le quali son solito parlare e in mercato ai banchi dove mi hanno udito molti di voi e altrove, non vi maravigliate né facciate rumore. La cosa va così. Io la prima volta ora vengo su in tribunale, e ho 70 anni, onde alla dicitura di qui sono proprio forestiero. E da che se fossi veramente forestiero voi mi perdonereste se io vi parlassi in quella voce e quel modo nei quali fossi allevato, prego voi ora, e mi par che ha ragione, che non badiate alla maniera di dire. Forse potrebbe ella esser peggio, forse meglio. E guardiate solo e consideriate se dico cose giuste o no. Imperocché questa è la virtù del giudice. Quella dell'oratore poi è dire il vero. Capitolo secondo. E ora, o ateniesi, è giusto che prima io mi difenda contro le prime false accuse e contro i primi accusatori, poi contro quelle e quelli venuti dopo. Imperocché accusatori miei presso voi ce n'è stati molti, e da un pezzo sono già molti anni, non dicendo nulla di vero, i quali più mi danno paura che non Anito e i suoi seguaci, con tutto che terribili anche loro. Ma quelli sono più terribili, o cittadini, i quali, pigliando i più di voi ancor fanciulli, di loro accuse contro me in nulla vere, vi ebbero persuasi. Che ci è un certo Socrate, uomo sapiente, speculatore delle cose del cielo e cercatore di tutte le cose sottoterra, e che le più deboli ragioni fa più forti. E gli spargitori, o ateniesi, di questa fama, essi sono i miei terribili accusatori. Impero che pensano quelli che li odono, i cercatori di cotali cose, non creder neanche negli dii. E poi questi accusatori sono molti, e m'han già accusato da molto tempo, parlando in quella età a voi, nella quale molto credevate, per essere fanciulli, alcuni giovinetti. E mi hanno accusato, né assente, niuno difendendomi. E la più strana cosa è che non si possa conoscere e dire loro nomi, salvo che qualche commediografo, ma tutti quelli che voi ebbero persuasi per invidia o calunnia, o perché persuasi e persuadenti alla loro volta, verso questi non so che fare io. Né si può qua menare nessun di loro, né argomentar contro. Ed è proprio necessità che io mi difenda come se combattessi con ombre, e che niuno rispondendo ribatta. Dunque consentite anche voi, i miei accusatori sono di due specie, i novelli e gli antichi che dico io. E consentite che io mi ho a difendere prima contro quelli, impero che voi avete udito quelli accusarmi prima e più molto che non questi venuti dopo. E sia, ci si ha a difendere dunque, e ci si ha a provare di trar via fuori dai vostri animi la calunnia che ivi cova da lungo tempo, e trarnela in tempo così breve. Oh, così fosse, se così è il meglio per voi e per me, se avessi pure qualche vantaggio difendendomi. Ma la difficoltà la vedo, e non mi si nasconde quale ella è. Ma vada come a Dio piace, si ha a ubbidire alla legge, e ci si ha a difendere. Capitolo terzo. Dunque, ripigliamo da principio. Che è l'accusa dalla quale m'è nata la calunnia, e alla quale, prestando fede, scrisse la querela sua Meleto? E che mai dicendo mi calunniarono i calunniatori? Via, essendo accusatori essi, la lor querela giurata conviene che la legga. Eccola. Socrate fa rea opera e temeraria, cercando le cose sottoterra e quelle su in cielo, e le più deboli ragioni facendo più forti, e questo insegnando agli altri. Su per giù, così ella dice, come avete veduto voi stessi là, nella commedia di Aristofane. Un Socrate se girante per aria, e di camminare per aria gloriantesi, e predicante altre molte ciance, delle quali non so nulla io, né punto né poco. E non dico così come dispregiando questa cotal scienza, se mai alcuno l'avesse, non ci vorrebbe altro che da parte di Meleto mi tirassi addosso anche cotesta accusa. Ma, o ateniesi, io non ne so nulla. E invoco a testimoni più di voi, e voglio che vi contiate l'un l'altro quanti mi avete mai udito ragionare, e ce n'è molti. Vi contiate l'un l'altro se mi ha udito mai alcuno, o poco o molto, ragionare di cose simili. E conoscerete che il medesimo valore hanno le altre accuse, le quali contro me dicono. Capitolo quarto. Sì, non c'è nulla di vero. E se avete mai udito che io mi provo a educare uomini e fo danari, neanche questo è vero. Certo, mi parrebbe bello se ci fosse alcuno atto a educare uomini, come Gorgia il Leontino, o Prodico di Ceo, o Ippia di Elide, a ciascun dei quali, andando di città in città, vien fatto, o ateniesi, di persuadere i giovani, che pur potrebbero conversare con qualunque volessero dei lor cittadini, e senza paga. Persuaderli, lasciata la conversazione di quelli, a conversare con essi, dando danari e col cuore ringraziando. E ci è altro sapiente uomo che so essere venuto qua fra noi, un di paro. So questo perché e m'avvenne d'accostare un che con i sofisti ha speso danaro più che tutti gli altri. Callia, il figliuolo di Ponico. Lui che ha due figliuoli, interrogai io. O Callia, se i tuoi due figliuoli fossero puledri o vitelli, non avremmo a prendere noi a paga un sovrastante, il quale, della virtù a loro convenevole, farli dovesse buoni e belli, e sarebbe un cavallerizzo o un che s'intende di campi. Ma da che sono uomini? Chi ha in mente di prender loro come sovrastante? Chi è intendente della virtù, della umana e civile? Credo che tu ci abbi pensato da che hai dei figliuoli. C'è alcuno, dissi io, o no? Oh sì, rispose. Chi? Dimandai io. E di dov'è? E per insegnare quanto vuole? Rispose: Evenu, o Socrate, di Paro, 5.000. Beato Evenu, dissi io, se egli ha questa virtù e sa insegnare così bene. Mi glorierei anch'io ed inorgoglirei. se sapessi. Ma io non so ateniesi. Capitolo quinto. Ripiglierà alcuno di voi: ma, o Socrate, che faccenda è la tua? Donde ti sono nate queste calunnie? Se non ti fossi preso brighe che gli altri non si prendono, se fatto non avessi come i più non fanno, tu non saresti venuto in così mala voce. Di a noi dunque, che è, affinché noi non giudichiamo di te a caso? Chi dice così, dice dirittamente, mi pare. E io mi proverò di chiarire a voi che è mai quel che ha generato contro me la mala fama e calunnia. State a udire. Forse parrà ad alcuni di voi che io scherzi, ma sappiate bene, io vi dirò tutta la verità. Io, ateniesi, non per altro che per una certa sapienza mi sono procurato cotesta mala fama. Quale sapienza? Quella umana, forse. Perché può esser bene che di questa sapienza sia io sapiente, e quelli che diceva dianzi sarebbero sapienti di certa sapienza più che umana. O non so che dico, perocché di questa io non ho cognizione, e chi afferma che sì, mentisce e mi vuole calunniare. E non ischiamazzate, o ateniesi, se vi par che dica una strana cosa, che non son mie le parole che io dico, ma sì di tale che degno è che voi gli abbiate fede. Imperocché di questa mia, se sapienza ella è, e quale, vi addurrò a testimonio l'Iddio che è in Delfo. Chierofonte voi lo conoscete. Egli fu amico mio da giovine, e amico fu al vostro popolo. E fuggì in questa ultima fuga con voi, e tornò con voi. E conoscete Chierofonte come egli era, e l'impeto suo dove che si mettesse. Ora, andato una volta a Delfo, ecco di che egli osò interrogare l'oracolo. Non ischiamazzate, dico, ateniesi. Lo interrogò se alcuno fosse più sapiente di me. Rispose la Pizia: niuno essere più sapiente. E di ciò sarà testimonio a voi suo fratello che è qui, che egli è morto. Capitolo sesto. Guardate perché dico questo, perché voglio che conosciate voi donde mi sia nata la calunnia. Dunque, udendo io quelle parole, pensai: che mai dice l'Iddio? Nelle parole sue che mai nasconde? Perché io non ho coscienza né punto né poco di essere sapiente. Che mai dice affermando che io sono sapientissimo? Certo non mentisce, che non gli è lecito. E molto tempo stette in dubitazione che mai volesse egli dire. Poi, e con fatica, mi fui messo così a cercare. Andai a un di quei che paiono sapienti, e fra me dissi: or se mai smentirò il vaticinio e mostrerò all'oracolo che più sapiente di me è colui. Tu dicesti me. E riguardandolo bene, non c'è bisogno che dica il nome, era un de politici, ecco che mi avvenne. Messomi a conversare con lui, mi parve che quest'uomo ben paresse sapiente ad altri molti uomini, e massimamente a sé medesimo. Ma chi non fosse? E mi provai di mostrarglielo. Tu sì credi essere sapiente, ma non sei. E tosto a lui e a molti che ivi erano presenti venni in odio. Andatomene via, ragionai fra me e così dissi: son più sapiente io di quest'uomo, imperocché a vedere niuno di noi due sa nulla di bello e di buono, ma costui crede sapere e non sa. Io non so, ma non credo neanche sapere. E pare che per cotesta piccolezza sia più sapiente io, perciò che non credo sapere quello che non so. E andai a un altro di quelli che mostravano essere più sapienti di lui, e me ne parve il medesimo. E così venni in odio e a quello e a molti altri. Capitolo VII. E seguitai ad andare con dolore e tremore, sentendo che veniva in odio. Non di meno, parevami necessario far grandissima estimazione della parola dell'Iddio e andare a tutti coloro che mostravano di sapere qualche cosa, per vedere che dicesse mai l'oracolo. E per il cane, o giudici, a voi si ha a dire il vero, e m'avvenne che, cercando secondo la mente dell'Iddio, quelli massimamente riputati mi paressero quasi essere più da poco, e quelli a vedere più da poco essere più savi. E la peregrinazione mia conviene che io ve la conti, la quale non fu senza fatiche, acciò che la sentenza dell'oracolo chiaro mi si mostrasse. Perché dopo ai politici andai ai poeti, a quelli di tragedia e a quelli di ditirambi e agli altri, per cogliere in sul fatto me quale più ignorante di loro. E pigliando in mano i loro poemi, quelli che mi parean più lavorati, anche per apprendere qualche cosa dai poeti, li interrogai che mai dire volessero. Bene, ho vergogno, giudici, di palesarvi il vero, eppur vi si ha a palesare. Ecco, se ho a dire di quegli argomenti dei quali aveano cantato, quasi tutti gli astanti ne ragionavan meglio di loro. In breve, questo ebbi conosciuto: che i poeti non per sapienza poetavano checché poetassero, ma per certa natura e da Dio occupati, come i divinatori e i vaticinatori, i quali dicono pure molte e belle cose, e non sanno nulla di ciò che dicono. E vidi che tale passione tocca i poeti. E insieme mi fui accorto che essi, perciò che poeti, si reputavano ancora nelle altre cose sapientissimi uomini, senza che fossero. E ne andai via pensando che, per la ragion medesima, al paragone di quelli, non altrimenti che al paragone dei politici, più valeva io. Capitolo VIII. In ultimo andai agli artefici, perché mi sapeva da me non essere io intendente di nulla. E quelli sapeva di avere a trovare intendenti di molte belle cose. E non mi fui ingannato, perché veramente essi intendevano cose che non intendeva io, e da questo lato erano più sapienti di me. Ma, o Ateniesi, i buoni artefici mi parve che il medesimo peccato avessero che i poeti, dacché ciascuno, per lo adoperare bene sua arte, si credeva sapientissimo anche nelle altre maggiori cose, e questa stoltizia oscurava quella sapienza. Onde, per parte dell'oracolo, interrogai me medesimo se io volessi essere così come sono, né per nulla sapiente della loro sapienza, né ignorante della loro ignoranza, o avere l'una e l'altra cosa che hanno quelli. Risposi a me e all'oracolo che mi giovava essere come sono. Capitolo IX. Or da questi esami mi son nate molte inimicizie, o Ateniesi, e molto aspre e fierissime, dalle quali sono nate molte calunnie, fra l'altre questa, che i mi chiamano sapiente, impero che ogni volta che argomento contro gli altri, mostrando che non sono sapienti, quelli che stanno lì credono che sapiente sia io. No, cittadini, quel che pare è questo: sapiente davvero essere Iddio, e volere egli dire per quell'oracolo che la umana sapienza vale poco o nulla. Ed è chiaro che non intende Socrate, e che usa del mio nome a fine di porre me a esempio, come se dicesse: colui tra voi, o uomini, è sapientissimo, il quale, come Socrate, conosciuto ha che i non vale nulla in sapienza. Onde anche ora vo guardando intorno, e cerco tra i cittadini e forestieri chi io creda essere sapiente. E secondo l'Iddio lo esamino, e se poi non mi pare tale, aiutando io l'Iddio, gli mostro che non è sapiente. e per questa occupazione non ho tempo di far cosa niuna degna che si dica, né per la città né per la casa, e sono in povertà grande per servigio dell'Iddio. Capitolo decimo. Oltre a ciò, i giovani che s'accompagnano meco e vengon da sé, figliuoli dei più ricchi che hanno gran tempo, udendo esaminar gli uomini, godono, e molte volte fra loro provano d'imitare me, e poi si mettono a esaminare gli altri. E sì che ne trovano in abbondanza, penso io, uomini che si credon sapere qualche cosa, sapendo poco o nulla. E ne viene che gli esaminati da loro se la pigliano con me, con loro no. E dicono che ci è un certo Socrate, scelleratissimo uomo, che guasta i giovani. E se alcuno dimanda, per guastarli, che fa e che insegna? Non anda a risponder nulla, che non sanno. Ma per non parere impacciati, dicono quel che si è soliti a dire contro tutti i filosofi, che insegna le cose del cielo e le cose di sottoterra, e a non credere negli dii e a fare diritto il torto. Però che la verità, credo non la vorrebbero dire, che si sono palesati persone che presumono di sapere, non sapendo nulla. E siccome ambiziosi e furiosi e molti e concordemente e persuasivamente e da un pezzo diffamanti, sì di loro gravi calunnie vi ebbero riempiuti gli orecchi. Tra costoro Meleto mi si è levato contro e Anito e Licone. Meleto in collera per ragion dei poeti, Anito per gli artefici e i politici, e Licone per gli oratori. Onde, come diceva dal principio, mi maraviglierei se questa calunnia, fattasi così molta, da voi potessi io dissipare in sì poco tempo. Ma la verità è questa, e ve la ho detta tutta, non nascondendo né scemando nulla, sebbene sono quasi certo che perciò mi odiano. Il che è prova ch'io dico vero, e ch'ella è una calunnia, e che la cagione della calunnia è questa. E cercate ora o poi, voi troverete che è così. Capitolo undicesimo. E questa difesa, quanto alle colpe delle quali mi hanno accusato i primi miei accusatori, basta. Da Meleto ora mi proverò di difendermi. Il buono, l'amante della città, come dice, e dagli altri venuti poi. E da che questi accusatori son diversi da quelli, la loro giurata querela ripigliamola. Su per giù dice, Socrate è reo verso ai giovani, guastandoli, e verso agli dii, in quelli non credendo, nei quali la città crede, ma sì, in strane cose demoniache e nuove. Tale è l'accusa. Esaminiamola capo per capo. Dice che io sono reo verso i giovani perché li guasto, e io dico che reo è Meleto perché scherza pensatamente, trae in tribunale le persone leggermente e dà a vedere di curarsi molto di cose delle quali nulla non si curò mai. Ch'ella è così, mi proverò di mostrarvelo.